9D. Ascolta e rispondi. Sai chi è quel signore? Sì, lo so. Sai dov'è la basilica? Sì, lo so. Sai a che ora apre la banca? Sì, lo so. Sai perché Paolo è assente? Sì, lo so. Sapete a che ora parte il treno? No, non lo sappiamo. Sapete che ore sono? No, non lo sappiamo. Sapete quando comincia lo spettacolo? No, non lo sappiamo. Sapete con chi è fidanzata Maria? No, non lo sappiamo.